Italia in controluce. Buongiorno da Anna Migliorati, benvenuti all'appuntamento con la cronaca e i personaggi che raccontano l'Italia in controluce. È stata una cosiddetta maxi operazione quella scattata questa mattina in Calabria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna contro esponenti dell'Ndrangheta. 42 le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti affiliati alle più importanti cosche. Gli interessi d'Ndrangheta, emerge non solo da quest'ultima operazione, sono sempre più legati agli appalti pubblici. Una trentina sono, solo nell'operazione di queste ore, gli imprenditori indagati. Avrebbero gestito proprio gli appalti pubblici a Reggio Calabria e in altri centri della provincia per conto dei clan. È lotta tra Stato e Ndrangheta, dunque. Cristina Carpinelli ne ha parlato con il presidente degli industriali calabresi, Umberto De Rose. Tutte queste operazioni stanno smantellando, diciamo, diverse famiglie. Ovviamente il potere ndranghetistico calabrese purtroppo è formato da circa 150 famiglie, quindi smantellarle tutte è difficile, però insomma sicuramente le operazioni che sono state condotte in porto negli ultimi tempi hanno messo in fortissima crisi questo sistema. È chiaro che questo sta provocando una reazione che è quella di tentare di imporre sul territorio una sorta di ulteriore pressione sul mondo delle imprese. Insomma, visto che avrà letto sicuramente che ultimamente hanno fatto diversi attentati sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Nonostante questo, però, percepiamo anche segnali importanti di ribellione da parte della classe imprenditoriale. Le denunce sono sicuramente aumentate in maniera esponenziale, anche le imprese del nord fanno igiene al contratto sull'autostrada cominciano a rifiutare questo sistema, perché ovviamente c'è stato proprio una presa di coscienza rispetto a questa situazione che diventa devastante, perché insomma in qualche maniera limita proprio addirittura la libertà di fare impresa, perché insomma si è condizionati negli acquisti, si è condizionati in tutta una serie di vicende. Quindi il dato che ci è arrivato ultimamente dice che le denunce sono in alcuni casi cresciute del 300-400%, quindi insomma siamo a numeri importantissimi, nel anche senso perché che... prima denunciavano talmente pochi che sì, ma no, infatti lo stavo dicendo questo, per quanto il dato in termini numerici assoluti potrebbe sembrare se prima denunciavano in 100, oggi hanno denunciato in 400, 500, 600, voglio dire, può essere un dato in numeri assoluti non eclatante, però è un dato che dal punto di vista del significato didattico secondo me è importantissimo, nel senso che quello che era una costante, cioè negli anni, negli ultimi 10 anni, purtroppo il numero delle denunce era sempre più o meno si teneva in un range che andava dal 10-15% aumento o di diminuzione l'anno. Poi ci sono dei segnali secondo me importantissimi, quali sono stati quelli ovviamente che tutti coloro, a cominciare con l'industria Calabria, che si sono costituiti parte civile nei processi, hanno avuto dei risarcimenti danni importanti. Perché voi vi siete costituiti parte civile? No? Noi siamo costituiti parte civile per la prima volta in Italia, della prima Confindustria regionale che si è costituita parte civile in 3 importantissimi processi di mafia, anche se non erano coinvolti come parte lesa nostri imprenditori, ma imprenditori generalmente appartenenti anche ad altre associazioni. Noi abbiamo ritenuto che questo ledesse l'immagine della Calabria e i giudici hanno riconosciuto questo nostro diritto di tutelare l'immagine della Calabria e hanno riconosciuto la nostra costituzione in parte civile. E in 2 processi addirittura abbiamo avuto la condanna, la prima volta in Italia che abbiamo avuto la condanna ad un risarcimento dei danni molto importante nei confronti della nostra confederazione regionale. Insomma, colpisce l'Ndrangheta negli interessi economici, che lei sa che sono quelli che ovviamente sono più l'aspetto più temuto dall'Ndrangheta, cioè il problema di essere colpito nei patrimoni è sicuramente temutissimo, e noi ovviamente abbiamo aperto la strada a questo tipo di anche gli enti che si sono costituiti oltre a noi in parte civile, tipo la regione, in alcuni casi le province, i comuni, avranno anche loro dei risarcimenti danni come abbiamo avuto noi. Questo significa che insomma cominciamo a smantellare anche la parte patrimoniale dell'organizzazione ndranghetistica. Non è un caso se negli ultimi mesi

cose. Penso a Disco Volante, una micro web TV creata da portatori di handicap. Hanno documentato a Senigallia le barriere architettoniche e da quando è nata questa micro web TV alcune barriere architettoniche sono state superate. Il saliscendi alle poste cittadine è stato sistemato. Altro esempio, ponte su Misa. Caos. Vieni. Sì, sì. Qui da solo non ci riusciresti, Franco, qui. Un'altra barriera che gettura di ferro in acqua. Aspetta, Franco, che ti aiutiamo. Aspetta, aspetta. Un ausilio ci siamo riusciti. Franco? Questo mi sembra incredibile. Questa è un'altra barriera architettonica che è veramente pericolosa. Le micro web TV sono un altro tipico esempio di produzione dal basso, che viene cioè dai cittadini. Un modello che fa scuola, ma sul quale le amministrazioni in Italia dovrebbero aprire gli occhi. Nel resto del mondo, per esempio, alcune esperienze del nord Europa, pensiamo anche alle TV di comunità olandesi, manifestano una presenza della pubblica amministrazione. In Italia le 284 micro web TV italiane nella stragrande maggioranza dei casi sono autofinanziate dai cittadini videomaker. Diciamo che la pubblica amministrazione investe ancora poco su queste esperienze. E anche per oggi termina qui Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scrivere per raccontarci le vostre storie a controluce@radio24.it oppure cercateci su Facebook. Ci risentiamo alla prossima edizione domattina alle 6.30.